prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Come già annunciato, in questa puntata e anche nella prossima ci dedicheremo all'approfondimento del report dell'Osservatorio Caritas sulle povertà e le risorse, il terzo rapporto Maestro dove abiti, particolarmente incentrato sull'emergenza abitativa, sul tema della casa. Il report è disponibile anche presso gli uffici di Caritas Padova in via Vescovado, si divide in due parti. La prima cerca di fotografare l'andamento della povertà e del disagio a partire dai nazionali per arrivare quindi al nord-est e al territorio diocesano. Nella seconda parte gli esiti dei focus group realizzati insieme ai beneficiari, ai volontari e agli operatori della Caritas del territorio, focalizzati sulle problematiche abitative e le possibili soluzioni. Don Luca Facco, direttore di Caritas Padova. Sì, presentiamo proprio il report, il frutto proprio dell'incontro, dell'ascolto dei volontari nel territorio. 26 vicariati coinvolti, abbiamo incontrato nel 2015, ascoltato, accompagnato più di 3.000 persone e all'interno di questo grande numero di persone che si avvicinano ai centri di ascolto vicariali, al centro di ascolto diocesano, in particolare quest'anno abbiamo voluto proprio porre un'attenzione, un approfondimento proprio su alcune questioni. C'è ovviamente il problema maggiore è la questione economica, più di 2.000 persone ci segnalano la questione economica, poi più di 1.500 persone il problema lavorativo, ma ne abbiamo circa 697 persone che ci hanno segnalato la questione, proprio il problema abitativo, il problema a casa. Ecco che allora con i volontari, con i beneficiari stessi, con alcune istituzioni, con altre associazioni cooperative abbiamo voluto proprio fare un focus per approfondire questa zona grigia. Che cosa significa problematica abitativa? E sono emerse proprio tante situazioni, dalla condizione igienica precaria al sovraffollamento, agli impianti inadeguati, alle case fatiscenti, i pignoramenti, sfratti, esperienze di accoglienza provvisoria. Ecco, abbiamo voluto proprio porre un approfondimento su questa zona grigia. Di solito le Caritas guardano proprio l'estrema marginalità, le persone senza casa. Invece abbiamo voluto proprio ascoltare, capire proprio anche tutta questa zona e dall'ascolto, dall'incontro con queste persone, volontari e beneficiari, ne è nata proprio una lettura della loro condizione. Ne emerge una situazione di grande precarietà, perché la casa significa sicurezza, significa relazioni, significa proprio un punto importante nella vita di una persona, ma ne emergono anche situazioni di persone che, pur in una condizione di grande precarietà, manifestano una grande dignità, persone che sono anche in grosse difficoltà ma non perdono la stima di loro stesse, il valore di loro stesse. Per noi è importante ascoltare queste persone, una chiesa in uscita, ma non tanto per fare qualcosa in più, ma per incontrare persone che hanno una grande umanità. Si può perdere la casa, ma non il senso di dignità e non il senso proprio del valore della persona, che può attraversare anche momenti di difficoltà, ma non deve mai perdere la sicurezza proprio e il valore che trova in se stesso e in una rete amicale, familiare, in una rete proprio anche di istituzioni che si pongono a fianco delle persone in difficoltà. Noi lo poniamo proprio questo report in mano innanzitutto alle comunità cristiane, perché diventa un'occasione proprio di porsi sempre in atteggiamento di ascolto del territorio, di ascolto delle persone, di formazione, perché più che cambiare gli altri a volte dobbiamo cambiare noi stessi. Ma poi anche lo poniamo in mano anche come uno strumento, un'opportunità anche alle istituzioni, perché diventa un'occasione proprio per porci la domanda: ma noi cosa possiamo fare, oppure possiamo cambiare, migliorare i nostri approcci, i nostri servizi? Perché spesso a volte si danno la colpa alle persone povere che non sono capaci, le si incolpa perché è colpa loro. Invece a volte ci rendiamo conto che siamo noi che dobbiamo cambiare politiche, atteggiamenti, da un welfare a volte degenerativo e che mantiene le persone in condizioni di sussistenza perché ci fa comodo a volte alla politica mantenere le persone con l'elemosina, invece un welfare generativo dove cambiamo noi, cambiamo il nostro sguardo, il nostro atteggiamento e aiutiamo le persone veramente a ripartire dalle loro capacità, dalle loro competenze. Oggi è fondamentale cambiare lo sguardo con cui guardiamo alla realtà, credere nelle persone, credere nelle loro capacità e credere nelle loro potenzialità. Sono state 247 le richieste riferite all'alloggio, dall'accoglienza all'ascolto, dal segretariato al sussidio, e Caritas è riuscita a individuare una soluzione per 200 di questi casi, quindi 4 su 5 grazie alle strutture diocesane di accoglienza o ad altre collegate. Tra queste anche le esperienze avviate con il progetto La Strada Verso Casa, un progetto di cui parleremo meglio la prossima settimana. Spazio adesso ancora al tema dei profughi per un appuntamento da segnalare questo martedì 3 maggio alle 18 al centro Laurenzianum di Mestre, vicino al Duomo, la presentazione di un libro intitolato Come un sasso o come un fiore, storie di rifugiati e progetti di vita in positivo. Sono persone arrivate nel nord-est, l'iniziativa è promossa dalla Fondazione del Duomo di Mestre e dall'Associazione Microfinanza e Sviluppo. Il titolo Come un sasso o come un fiore è la citazione di una frase, appunto, di una persona che è stata ospitata nel nostro territorio, una donna afghana, Amal, che ha detto: noi esseri umani diventiamo come un sasso, come un fiore, dipende dalla storia della tua vita. Sono raccolti in questo testo le esperienze, i percorsi che tendono a creare autonomia economica nei titolari di protezione internazionale. Sono dunque molti segnali positivi che dimostrano quanto sia utile dal punto di vista socio-economico e culturale attivare strumenti e pratiche che valorizzino e mettano in circolo il potenziale dei saperi, delle competenze e delle abilità che i rifugiati possiedono. Anche queste storie confermano l'iniziale intuizione, spiega Gian Pietro Pizzo dell'Associazione Microfinanza e Sviluppo. I rifugiati costituiscono una risorsa preziosa e non un problema in più. Questo libro vuole essere un punto di riflessione su queste pratiche, buone pratiche, mettendo al centro le storie e le voci delle persone che hanno intrapreso questo percorso. Questo martedì 3 maggio, ore 18, Laurenzianum di Mestre, appunto, la presentazione di questo libro, Come un sasso o come un fiore. L'appuntamento con la nostra rubrica è come sempre fra 7 giorni. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.